dalle cose che ci siamo detti ieri, quando abbiamo parlato, noi non ci siamo mai visti. Se qua c'è una luce. Ah no, no. E riprendiamo un po' dalle cose che avevamo detto ieri sulla questione delle origini culturali, antropologiche, storiche, della percezione moderna della questione finanziaria. Potrei quasi dire che l'argomento di cui stiamo parlando è il rapporto, da sparo grosse naturalmente, ma tanto per intenderci, il rapporto fra estetica e finanza, come nella cultura moderna, nella mente moderna, nello spirito moderno, si costituisce una percezione estetica differenziata del problema finanziario. In maniera banale, voi sentite dire spesso che per i cattolici, per diciamo i cristiani di impronta non protestante, meglio, cattolici ortodossi che essi siano, il denaro è lo sterco del diavolo. Questa espressione l'avrete sentita usare. È comunque una colpevolizzazione, una demonizzazione della funzione economica in generale e del denaro in particolare, con una particolare connotazione negativa per l'usura, per quella funzione che viene definita usura. Come voi sapete, per chi di voi ha letto Il Mercante di Venezia, ad esempio, di Shakespeare, sapete che nei confronti della comunità ebraica viene tradizionalmente usata, nel mondo cristiano cattolico viene usata una forma di colpevolizzazione, di attribuzione demoniaca per il fatto che gli ebrei sarebbero usurai. Lo sono forse per natura, è forse un, in realtà si tratta di un fatto storicamente molto determinato, molto preciso, perché la comunità ebraica sviluppa nel corso dell'epoca medievale una particolare predisposizione, diciamo, per lo scambio finanziario. Beh, perché è costretta a farlo. Nella cultura evangelica l'usura è stigmatizzata. Prestare soldi all'interesse è considerato un'azione in qualche modo colpevole. E però la comunità borghese, nella sua fase originaria, nei primi secoli dello sviluppo moderno, ha bisogno del credito. Il credito costituisce in qualche modo un volano indispensabile, un elemento indispensabile per l'attivazione di quella dinamica di cui parlavamo ieri, che diventerà poi la dinamica capitalistica. E allora ci vuole qualcuno che presta dei soldi. Non deve essere un cristiano, perché un cristiano verrebbe stigmatizzato. E dunque ci sono quei giudei cattivi, comunque, che comunque sono emarginati dalla comunità, che siano loro a farlo. Peraltro la comunità ebraica ha una caratteristica che le deriva dalla sua storia diasporica, dal fatto di essere una comunità dispersa, che ovviamente facilita nella cultura ebraica una predisposizione verso, diciamo così, l'investire sul futuro, il pensare al futuro. Possiamo sempre essere perseguitati, dovremo scappare, dunque è bene che predisponiamo le condizioni per la fuga. La persecuzione della comunità ebraica non è un fenomeno solo moderno, è una lunga storia nel mondo cristiano. Ecco allora che gli ebrei vengono, per così dire, incaricati di svolgere questa funzione mal vista dalla comunità cattolica, e vengono usati dal cristiano non cattolica, vengono usati dai cristiani per attivare il credito e allo stesso tempo colpevolizzati perché fanno ciò che i cristiani gli chiedono di fare in una maniera o nell'altra. Così nasce quella definizione diciamo colpevolizzante che poi nell'epoca moderna finirà per identificare nella comunità ebraica la comunità finanziaria, cosa del tutto abusiva. Gli ebrei sono finanzieri, sono operai, sono artigiani, sono fisici e mille altre cose come qualsiasi altra comunità religiosa. È vero però, per non essere reticenti su questo punto, è vero che nella comunità ebraica si sviluppa, in una parte minoritaria della comunità ebraica, si sviluppa una competenza specifica sulla questione finanziaria che è legata con la storia e con la disposizione medesima di questa comunità. Bene, quello che mi interessava qui era dire che la questione dell'usura, questione peraltro difficile da definire in modo preciso, perché che cosa è usura e cosa non lo è? Nel prestito e nell'investimento di denaro, ad un certo punto non solo l'investimento finanziario, non solo il prestar denaro a interesse, ma anche l'investir denaro potrà in qualche modo essere considerato colpevole perché produce profitto. Ecco che nella storia della cultura cristiana si verifica una colpevolizzazione della funzione capitalistica in generale, finanziaria in particolare, ma capitalistica in generale. Teniamone conto, intanto teniamone conto perché così comprendiamo anche uno degli elementi dell'anticapitalismo moderno. Nell'anticapitalismo ci stanno tante cose, buone e cattive naturalmente. Ci sta anche un antico pregiudizio anti-ebraico che talvolta riemerge, come ad esempio quando si dice ma sono gli ebrei che ci stanno portando alla rovina, come si diceva nei Germani degli anni 20 e negli anni 30, e come qua e là si sente dire anche oggi naturalmente, sono gli ebrei che ci portano alla rovina perché sono loro che hanno in mano. Poi se vai a studiare invece la finanza scopri che in Italia la finanza è tutta cattolica, o è larghissimamente cattolica, quindi però questo pregiudizio continua a riprodursi e sempre i pregiudizi hanno un elemento di fondamento storico che bisogna andare a scovare per comprenderlo. Punto 1. Punto 2. Ad un certo punto, come dicevamo ieri, nel 1517 una parte del mondo cristiano, precisamente i borghi tedeschi, queste città tedesche nelle quali si sta formando una nuova classe che insieme è urbana, imprenditrice e relativamente colta, in alcuni borghi tedeschi comincia a svilupparsi una cultura di tipo nuovo, che nasce dal gesto di un monaco della città di Württemberg, di nome Martin Luther, il quale compie un'azione di rottura esplicita con il mondo romano, con il cristianesimo romano. Un giorno del 1517 Martin Luther attacca sulla porta della sua chiesa un manifesto con 99 tesi che comincia con la condanna della corruzione della chiesa romana, ma poi si allarga, diffonde in considerazioni molto più significative, molto più lungimiranti, e cioè Martin Lutero rivendica il diritto individuale del cristiano e la responsabilità individuale del cristiano di fronte a Dio. In questo io suggerisco di vedere, non io, perché vi sto dicendo delle cose che sono largamente note e c'è un libro importantissimo che si chiama L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, del sociologo tedesco Max Weber, che su questo argomento ha probabilmente detto le cose più significative. Il gesto di Martin Lutero mette in moto un processo che si diffonde largamente nell'Europa del Nord, prima in Germania e poi in altri paesi del Nord Europa, e che è fondato su una diversa considerazione, uno, del rapporto fra l'uomo e Dio. Il rapporto fra l'uomo e Dio, che nel mondo romano, nel mondo che poi si chiamerà cattolico, perché la parola cattolico nasce solo dopo il Concilio di Trento, alla fine del Concilio di Trento, ma insomma diciamo il mondo del cristianesimo romano. Il rapporto fra l'uomo e Dio nel cristianesimo romano è un rapporto mediato dalla ecclesia, dalla chiesa, dalla comunità, dalla famiglia, diciamo così, per cui l'individuo non è direttamente responsabilizzato nel suo rapporto con Dio. Mentre il mondo protestante tende a distruggere, a eliminare o comunque ad attenuare fortemente il ruolo della Chiesa, della comunità, della famiglia, e a valorizzare invece l'immediato rapporto fra il cristiano e Dio. Cosa c'è dietro questa innovazione? Tante cose, naturalmente, la formazione di una classe che deve rispondere e responsabilizzarsi sul piano economico, sul piano sociale, la formazione di una borghesia, che è un fenomeno prevalentemente tedesco in quel periodo, ma anche e forse soprattutto l'invenzione della stampa, un fatto di tipo mediologico che cambia il rapporto fra l'uomo e Dio e fra l'uomo e la comunità, fino al momento in cui, grazie a Gutenberg, non viene introdotta questa tecnologia che rende possibile la moltiplicazione del testo, della Bibbia per esempio, fino al 400, al 500, se volevi parlare con Dio, se volevi sentire la parola di Dio, dovevi andare nel luogo in cui il prete, la Chiesa, ti permette di entrare in rapporto con la religione, con la parola di Dio. Dal momento in cui invece, grazie alla diffusione del testo scritto, che si verifica molto rapidamente nel mondo tedesco nei decenni che seguono all'invenzione della macchina da stampa, nel momento in cui diventa possibile accedere direttamente alla parola di Dio, a quel punto ogni cristiano, ammesso che sappia leggere e ammesso che disponga di una somma di denaro sufficiente per comprarsi il libro, può avere accesso alla parola di Dio. Ecco che molto rapidamente, nel corso del XVI secolo, viene a formarsi una massa consistente di persone che sono quelle economicamente più forti e influenti, la borghesia, la neonata classe del borgo, che rifiuta la Chiesa di Roma, non solo perché ti chiede tutti i soldi per la decima, per le indulgenze, per questo e per quello, perché è corrotta, per quello e per quell'altro, ma anche perché non ce n'è più bisogno nella formazione di una coscienza religiosa. Ecco che nasce questo fenomeno che noi chiamiamo protestantesimo e che avrà nel periodo immediatamente successivo degli sviluppi culturali molto interessanti. Prima di tutto questo elemento di rivendicazione, di affermazione della responsabilità individuale del cristiano e la emancipazione rispetto ad una comunità accogliente, tollerante, confessante, ma anche lenta, incapace di produrre fenomeni di sviluppo, fenomeni di attivazione dell'impresa. Poi, subito poco tempo dopo, nell'ambito di un nuovo movimento protestante che si chiama Calvinismo, per il nome del fondatore di questa comunità, e nasce una idea, nasce, si diffonde un'idea nuova anche del rapporto con il profitto economico. Calvino dice: non è vero che il denaro è lo sterco del diavolo, non è vero che essere ricchi è segno di peccato e di colpa, al contrario. E Dio manifesta la sua grazia anche attraverso la prosperità su questa terra. Chi è ricco porta nella sua vita la manifestazione di una vita cristianamente rispettosa. Chi è ricco dimostra con la sua stessa ricchezza di essere benvoluto da Dio e di rispettare i suoi precetti. Vedete che tutto ad un tratto cambia la percezione stessa del rapporto con il denaro. E il mondo protestante, in cui Max Weber attribuisce un ruolo fondamentale nella creazione delle premesse culturali del capitalismo moderno, il mondo protestante diventa il motore dello sviluppo industriale, dello sviluppo capitalistico della modernità. Noi in questa maniera possiamo capire in qualche maniera anche gli effetti di lungo periodo, gli effetti che si manifestano ancora oggi, di una duplice natura dello sviluppo moderno d'Europa, e non solo d'Europa. L'Europa intraprendente, efficiente, laboriosa e ricca del nord, della Germania, dell'Olanda, della Scandinavia, dell'Inghilterra e della Francia del nord, e l'Europa lenta, pigra, tollerante dei paesi latini che rimangono arretrati, tra virgolette, nella storia dello sviluppo capitalistico moderno. Ecco, fino ad ora ho parlato come se fossi Eugenio Scalfari e me ne vergogno un poco, ma insomma bisogna farlo qualche volta. Cioè ho descritto la storia dell'Europa moderna come se i buoni stanno a nord e i cattivi stanno a sud. Non sono affatto convinto di questa versione, anche se è una versione storicamente fondata, però cerchiamo di vedere anche l'altra faccia di questa faccenda. Voi sapete che in Italia esiste un partito che al momento attuale si identifica con la Repubblica, diciamo, e con il Partito Democratico, un partito che rivendica un'anima protestante che mai si è manifestata in Europa, la responsabilità individuale, se siete poveri è colpa vostra perché non avete voglia di lavorare, eccetera, eccetera. E naturalmente in questa versione c'è qualcosa di fondato che va ricostruito e compreso, ma cerchiamo di vedere l'altra faccia. 1517. A Roma arriva la notizia del fatto che questo pazzo monaco, pazzoide, Lutero era considerato come una sorta di visionario violento, aggressivo, questo monaco dichiara guerra alla madre chiesa. Questa guerra rapidamente si diffonde nel nord europeo, i principi tedeschi la appoggiano Lutero, così smettono di pagare le tasse al Papa. La borghesia tedesca e poi la borghesia nordica in generale si mobilita fino a dare vita a delle vere e proprie armate militari. Si arriverà a una guerra religiosa che nel corso del 1500 e del 1600 dilaga in Europa fino alla grande battaglia del 1620, la battaglia della Montagna Bianca. nel nord della Cecoslovacchia, vicino a Praga, una battaglia nella quale cristiani cattolici e cristiani protestanti si scontrano militarmente per il dominio d'Europa, giungendo ad una sorta di equilibrio, di accordo che verrà poi sancito nella dieta di Worms del 1648, il cui principio fondamentale è lex eius religio, ad ogni paese la sua religione, una cosa che, insomma, un trattato che poi verrà ulteriormente sancito con il Trattato di Vestfalia, un trattato in cui si riconosce che l'Europa ha religioni differenti, ha forme politiche differenti e queste forme politiche devono rispettarsi l'un l'altra. Nasce in qualche modo l'Europa delle nazioni. L'Europa delle nazioni nasce come effetto della separazione, della spaccatura fra Europa protestante, nordica, ed Europa cattolica, meridionale, latina. Però la Chiesa di Roma reagisce, naturalmente. Reagisce convocando un concilio a Trento, terra di confine, terra che si trova vicina al mondo protestante, e quindi anche simbolicamente si intende sottolineare il fatto che Roma vuole comprendere le ragioni dei protestanti, vuole venire ad un accordo con loro, e difatti Martin Luther viene invitato a partecipare al Concilio di Trento. Martin Luther, che non è scemo, pur essendo collerico, sa benissimo che se va a Trento sa cosa lo aspetta, tant'è vero che gli storici ci dicono che era pronto l'arresto e l'eliminazione per Lutero, quindi Lutero non va a Trento. E il concilio, che dura 45 anni, quindi è un evento di enorme portata sul piano religioso, politico, culturale, il concilio dapprima si orienta verso una riforma della Chiesa. Riforma che effettivamente avverrà, perché la Chiesa del 600, la Chiesa post-tridentina, è una Chiesa moralizzata. I preti vengono costretti al celibato, i papi la smettono di fare decine di figli e di assassinarsi l'un l'altro, lo spreco viene parzialmente limitato o comunque finalizzato a scopi più morali. Insomma, la Chiesa cambia dopo il Concilio di Trento, ma non è questo l'evento più significativo. L'evento più significativo, la decisione, il mutamento più significativo che segue al Concilio di Trento è la diversa dimensione geografica e culturale che la Chiesa cattolica attribuisce a se stessa. La Chiesa di Roma cambia nome, non si chiama più Chiesa cristiana, si chiama Chiesa cattolica dopo il Concilio di Trento. Katholikos in greco significa universale, e ovviamente nel momento in cui la Chiesa viene divisa in due e dunque non è più universale, afferma ciò che è negato dai fatti, afferma di essere universale. Ma nel momento in cui la Chiesa di Roma fa questo, cioè afferma una universalità che sta perdendo in Europa, avanza un progetto che è un progetto globale, cioè la Chiesa di Roma scopre l'America in qualche modo, e da quel momento in poi diventa l'anima principale del processo di colonizzazione che Colombo e altri avevano iniziato. Inizia un processo che prende nome per l'appunto di evangelizzazione, nel corso del quale perduti i tedeschi, diciamo così, perduti i nordici, si punta a convertire le anime di questi buoni selvaggi. Sul carattere buono o cattivo dei selvaggi si sviluppa tutta una discussione molto interessante nella chiesa romana tridentina e post-tridentina, ma insomma si inizia un processo di conversione di questo mondo che prima di tutto è un mondo illetterato, un mondo non ancora integrato alla cultura europea. Ecco, allora c'è una cosa che salta agli occhi fin da subito. Se vogliamo convertire l'indigeno messicano o peruviano, è inutile che gli portiamo la Bibbia, quello non sa leggere. È molto meglio che utilizziamo l'immagine. Ecco che se il protestantesimo nordico si caratterizza fin dal principio come un movimento culturale ed estetico improntato alla severità aniconica o addirittura iconoclasta del gotico, se questa è la caratterizzazione della cristianità nordica e borghese, la caratterizzazione della cristianità a vocazione globale, che però ha sede a Roma e che ha il suo esercito in Spagna, la vocazione di questa cristianità latina è la ipericonia, lo sviluppo di una spettacolarità immaginifica che deve colpire diciamo, l'immaginazione delle popolazioni illetterate del mondo nuovo. Ecco come noi possiamo leggere la contrapposizione tra gotico e barocco nella cultura europea della modernità. Il barocco è essenzialmente la cultura di una ipervisualità ed è al tempo stesso la cultura di un mondo che, se mi permettete questa espressione un po' eccessiva, che non crede nella verità, crede nello spettacolo. Il protestantesimo si fonda su una rivendicazione della lettera e del testo. Il cattolicesimo si fonda su una prevalenza dell'immagine e dello spettacolo. Dio si esprime attraverso uno spettacolo infinito, uno spettacolo in cui tutto convive con tutto. Non c'è la verità. Ecco, qui per tornare a un discorso che facevamo ieri sul gesuitismo. Il gesuitismo, pur essendo severo come i protestanti, però è severo in nome del potere, non in nome della verità. La verità è cosa che poco importa allo spirito dell'evangelizzazione cattolica. Qui si apre una questione che attraversa l'intera storia della modernità, che è relativa allo statuto della verità. Cos'è vero? Domanda che oggi ritorna di grande attualità. Eccoci, io qui poi naturalmente faccio un rapido salto all'epoca presente per chiedermi che ne è oggi del rapporto fra protestantesimo e barocco? Che ne è oggi nell'epoca della finanziarizzazione del rapporto fra protestantesimo e barocco? Cos'è la verità per il borghese moderno? E cos'è la verità per la storia del capitalismo moderno? Allora, Weber ci spiega che la modernità, il capitalismo moderno è essenzialmente fondato sulla affermazione di un'etica protestante che è, possiamo dire, etica della responsabilità ed etica della verità. Verità, cosa vuol dire verità? Naturalmente, insomma, tutte le parole che finiscono con l'accento sulla A sono generalmente parole, se è possibile da evitare, parole retoriche, gonfie, bugiarde. La, La verità può essere considerata come uno statuto del discorso in cui l'enunciato corrisponde al mondo, ok? Prendiamola per buona questa approssimativa definizione di verità, uno statuto del discorso in cui l'enunciato corrisponde, l'enunciato linguistico corrisponde al mondo. Dobbiamo fare una breve parentesi semiotica a questo punto e cercare di capire meglio l'enunciato. Cos'è l'enunciato? Cosa ci sta dentro l'enunciato? Enunciare significa enunziare, annunciare fuori. E quando c'è e nelle lingue latine c'è sempre un venire fuori, esprimere, espellere, enunciare, annunziare un venire fuori di qualcosa, del nunzium, del messaggio. E il messaggio si esprime come segno e secondo i semiotici, che qui ora un po' ci dovrebbero aiutare, secondo i semiotici il segno è una realtà, è un oggetto dalla duplice natura, in quanto il segno è portatore al tempo stesso di un significato, anzi è portato da un significante ed è portatore di un significato. Ogni segno, la nuvola, è un significante, è bianca, ha tutti i ricciolini e ha un significato, pioverà. E così come la parola albero ha un significante che può essere un significante fonetico, no? Sarà tree in inglese o bloom in tedesco o albero in italiano, e come vedete fra le tre non c'è nessun rapporto, non si assomigliano per niente l'albero tedesco, l'albero italiano e l'albero inglese, eppure sono lo stesso significato, cioè mettono in moto nella nostra mente una catena associativa, potremmo dire proprio una catena sinaptica, cioè un significante fonico, il significante albero, scatena nella tua testa, nel tuo cervello, una serie di neuronal pathways, di percorsi neuronali, di interdipendenze fra neuroni, per cui ti compare un oggetto con delle foglioline verdi e così via, che corrisponde. Dunque, il segno è questa realtà duplice che porta dentro di sé un significante di un significato, ma il segno non ci servirebbe a significare niente se al di fuori di questa duplicità di significante e significato non ci fosse qualcosa a cui il segno si riferisce, e lo chiamano i semiotici il referente, referente essendo quella realtà oggettiva, ammesso che ci sia la realtà oggettiva, perché se io dico Io corno è un animale, o sfinge, la sfinge è un animale che ha un corpo di leone e una faccia di donna. C'è la sfinge? Esiste? No, non esiste. Però se ci mettiamo d'accordo, io dico sfinge e nella vostra mente salta fuori un referente che non esiste. Così come se io dico comunismo, c'è il comunismo? Beh, Lina ci dirà che nel suo paese c'è, ma io non ci credo. Mi pare che il comunismo non c'è da nessuna parte, né mai c'è stato, non so se mai ci sarà, eppure se diciamo comunismo è una parola che nella nostra mente evoca un referente immaginario. I referenti possono essere anche immaginari, però stanno fuori dal rapporto fra segno e significato. Dunque, i semiotici ci dicono che l'enunciazione è un atto che, mentre utilizza la tensione fra il significante e il significato, significante grafico, fonico, eccetera, in un significato mentale, neuronale, cerebrale, immaginativo, mentre utilizza questa tensione, si riferisce ad una realtà esterna, che è la realtà del referente. Chiuso la parentesi semiotica, parliamo di economia, parliamo di finanza. Ecco, e torniamo alla nostra questione originaria. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando del denaro come forma di comunicazione. Te l'avevano detto? No. Per chi non c'era prima, adesso faccio una piccolissima parentesi di ricapitolazione in 30 secondi di quello che abbiamo detto fino qua, e stiamo ragionando sul denaro dal punto di vista della sociologia della comunicazione e quindi dal punto di vista del linguaggio, della semiologia e delle tecnologie di comunicazione. E ci occupiamo della crisi finanziaria in atto, cerchiamo di capire cosa è successo e cosa succederà, però dal punto di vista del linguaggio. E siamo partiti da una affermazione che è, come dire, lo slogan originario del nostro, di questo corso, che dice: il linguaggio e il denaro hanno qualcosa in comune, sono niente eppure muovono tutto. Ecco, da qui stiamo cercando di fantasticare, di tirar fuori elementi che ci permettano di capire qualcosa nel casino spaventoso in cui ci troviamo, spaventoso ma anche intellettualmente affascinante, diciamo. Probabilmente finiremo malissimo, in miseria e forse anche con il nazismo, secondo me, ma dal punto di vista intellettuale, finché possiamo, cerchiamo di divertirci, perché la cosa è molto molto eccitante dal punto di vista filosofico, teorico e così via. E meglio capire, anche quando si muore, dice, vabbè, non c'è modo di uscirne fuori, però intanto capisco, faccio qualcosa che mi appassiona nel frattempo, poi si vedrà come ce la caveremo. Tra l'altro, capire serve anche per trovare una via d'uscita, molto spesso, per molti o per pochi, chi lo sa. E dunque capiamo. Allora, segno, significante, significato e referente. Cerchiamo di tutto questo segno che si biforca in significante, significato, e che però rimanda ad un referente. Se ci spostiamo sul piano economico, se cerchiamo di ridefinire la questione del denaro a partire da questo modello di tipo semiotico, potremmo dire che il denaro porta dentro di sé una duplicità di significante e di significato. Come significante il denaro è niente, un pezzo di carta, anzi molto spesso ormai neppure più un pezzo di carta, niente, semplicemente il fatto che io dispongo di un credito maggiore del tuo, minore del tuo, e questo credito si manifesta talvolta attraverso una stringa elettronica che è inserita all'interno di un certo dispositivo che si chiama bancomat, o in molte altre maniere mi permette o non mi permette di comprarmi una giacca ricca o povera a seconda del fatto che la stringa contenga molto o poco di quel niente che dicevamo prima. Dunque il significante è un significante puramente convenzionale, simbolico. Poi c'è un significato, ed il significato è, qua la questione si complica, perché il significato del significante carta di credito è il credito medesimo di cui io dispongo. E a cosa corrisponde il mio credito? Cioè, a cosa corrisponde? Qui proprio stiamo navigando a vista, non so che cosa sto per dire. Perché non c'è scritto da nessuna parte, non c'è nessun libro che ci abbia detto quello che sta succedendo adesso. Dunque diciamo che il credito è o è stato fino ad un certo punto della storia dell'economia capitalistica, è stato una misura della quantità di lavoro svolta dalla comunità. Cioè, io dispongo di un credito che dovrebbe essere comparabile alla massa di lavoro che io ho depositato in forma di salario, per esempio. Ho lavorato molto, ho guadagnato molto salario e questo è andato a costituire un credito. Oppure io ho intrapreso in settori economicamente redditizi, dunque ecco che il mio lavoro di imprenditore mi ha accumulato un credito che sta scritto da qualche parte, per cui il significante carta di credito darà un significato che corrisponde a me. Il referente dunque dovrebbe esistere, è la massa di lavoro accumulato in forma di lavoro morto, come dice Marx, ovvero capitale, che da qualche parte si concretizza in immobili, merci, libri scritti, attività, servizi forniti alla comunità, eccetera, eccetera. Questo dovrebbe essere il credito. Bene, torniamo indietro, torniamo alla questione della verità e poniamoci il problema della verità nel linguaggio dell'economia. Carlo Marx, al quale abbiamo già fatto riferimento in altre occasioni, ci diceva che la dinamica del capitalismo, questa dinamica di espansione, di accumulazione, è fondata su un piccolo segreto che è quello del plusvalore, cioè io ho $1,000, li investo, compro un lavoro di 10 persone, alla fine dell'anno avrò $1,200, perché? Perché quelle 10 persone che hanno lavorato per me hanno prodotto di più di quello che io gli do come salario. C'è un plus lavoro che si trasforma in un plus valore che in parte consumo io come profitto mio personale, in parte investirò nella mia fabbrica l'anno prossimo. E dunque che il capitalismo si è sviluppato, il capitalismo protestante si è sviluppato attraverso una sistematica estrazione di plusvalore fondato sul lavoro dei lavoratori, e questo plusvalore si è accumulato creando quella massa di beni che corrispondono alla ricchezza sociale disponibile. Da qui il fenomeno della crescita, per cui ogni anno un'economia sana dovrebbe crescere di un certo quantitativo, eccetera, eccetera. Bene, cos'è la verità, dunque? Marx risponde, o diciamo in un'altra maniera, cos'è la misura? Aspetti, i romani, i latini chiamano la misura ratio, la parola che i latini usano per intendere la misura è ratio, che noi traduciamo come ragione. La ragione è la misurabilità delle cose del mondo. E un filosofo greco che si chiama Protagora dice: l'uomo è la misura delle cose del mondo. Cioè il mondo non ha nessuna misura, è l'uomo che istituisce la misura, che commisura una cosa con l'altra. E cos'è il denaro? Marx risponde: il denaro è equivalente generale, cioè è la misura di tutte le cose. Sì, però come fa? Perché il denaro è la misura di tutte le cose? Dove sta il segreto che permette al denaro di essere la ratio che tiene insieme tutte le cose? E Marx risponde con quella che chiamiamo la teoria del valore. Risponde: il valore delle merci, che verrà registrato dall'equivalente generale denaro attraverso la determinazione dei prezzi, la misura del valore delle merci sta, attenzione che questo è il punto centrale, sta nella quantità di tempo di lavoro necessario medio per produrre quella cosa. Ripeto, il valore di una merce dipende dalla quantità di lavoro, di tempo di lavoro, non di lavoro, di tempo di lavoro, necessario mediamente per la produzione di quel bene. Tutte le parole che usa Marx sono essenziali, importanti, se ne dimentichiamo uno salta tutto. Dunque, tempo di lavoro. Il lavoro si può misurare solo in una maniera, dice Marx. Non c'è un lavoro che vale di più ed è un lavoro che vale di meno. Il valore del lavoro non c'è, perché il lavoro produce il valore, quindi non ha valore in sé. Il lavoro ha tempo, un'ora, 2 ore, 8 ore, eccetera. Tempo di lavoro. Ma quello lì è pigro, quello lì va velocissimo, quindi come allora Infatti non vale più. è una misura anche quella, poi tutto Sì, sommato. no, allora occorre una misura per misurare, e la misura è la media, il tempo medio necessario per produrre quella merce, stante un certo sistema delle tecnologie. Se disponiamo del telaio, della macchina, di una certa macchina, lei, lui e lei ci metteranno dei tempi diversi, però un essere umano che abbia voglia di lavorare, come direbbe la Fornero, o Fornaro, non mi ricordo più, in un'ora produrrà quella cosa lì. Se lavora, se produce di meno, vuol dire che è meglio licenziarlo. Se produce di più, gli altri dovranno andare alla sua velocità. Il tempo medio necessario per produrre una merce finisce per essere la misura del suo valore, ok? Tutto bene, tutto a posto. La storia del capitalismo moderno si fonda esattamente su questa misurabilità del valore. E potremmo anche dire che così abbiamo scoperto la verità di cui i protestanti ci stanno parlando. La verità consiste nella corrispondenza dell'azione umana e dell'enunciazione umana ad una sorta di consapevolezza media che si esprime nell'azione del borghese, nell'azione della persona eticamente motivata e responsabile e così via. Ecco perché, ci dice Max Weber, il protestantesimo, in quanto esalta la responsabilità individuale ed in quanto fonda la verità sul testo, diciamo, l'etica, l'atteggiamento morale che fonda, motiva e sorregge la storia del capitalismo borghese moderno. Ora, noi viviamo oggi in un'epoca in cui questa verità sembra essere definitivamente saltata. Cosa è successo nel frattempo? E io lo dico adesso. Salto avanti e all'indietro perché cerco di riprendere il filo del discorso su protestantesimo e barocco. Abbiamo dichiarato con Weber che il barocco è fuori dalla porta della modernità. I barocchi sono pigri, mammoni, confusionari e menzogneri. Per loro quel che conta è l'immagine nella sua infinita volubilità e quindi non ci si può fidare di loro. Come infatti, li vediamo, guardate, sono in debito nei confronti della banca tedesca. La prova, per non parlare poi degli ortodossi, gli ortodossi greci li lasciamo da parte, ma sono peggio ancora dei pigri cattolici. Breve parentesi, perché così mi avvicino meglio al mio punto. È uscito un paio di anni fa un libro, forse qualche anno fa, un libro di un colombiano che insegna all'Università di Città del Messico, che si chiama Bolívar Echeverría, filosofo, molto interessante, poco noto, non tradotto in Italia per il momento, e in un libro dal titolo Vuelta del siglo, cambio di secolo, dice, guardate, qui la vecchia storia weberiana secondo cui il capitalismo moderno si fonda sulla moralità protestante è fuori corso, non è più vero. Nel nostro secolo è vero il contrario. Il capitalismo contemporaneo non è protestante, è barocco. E lui lo dimostra in tante maniere. Lo dimostra, ad esempio, E mostrando che i settori dell'economia contemporanea che producono più valore sono i settori dell'immagine, della produzione di segni, la televisione, la pubblicità e così via. La produzione di menzogna, la pubblicità, è diventato il fattore trainante dell'intero sviluppo economico. Però bisogna andare più a fondo di questa faccenda, bisogna cercare di capire cosa è cambiato nella dinamica produttiva centrale della produzione di valore. Prego. Ma faccio una domanda, siccome lei prima ha parlato del, cioè, seguendo il suo discorso, diciamo, la Chiesa romana, che aveva, diciamo, le redini di questa parte barocca, diciamo, della medaglia, conquista, diciamo, l'America, però la parte sud dell'America, sì. La parte nord. Beh, la colonizzazione del Nord America avviene nei secoli successivi, a partire, diciamo, dal 1620, grosso modo, ed è opera dei protestanti olandesi e inglesi. Però la produzione di immagine, per esempio... Ah beh, lì è molto semplice. Mentre i cattolici vanno a sud per convertire gli indiani, ne ammazzano una quantità straordinaria, ma alcuni li tengono in vita per consegnarli al Signore Dio e alla fede cattolica, i protestanti sterminano interamente la popolazione indiana del nord. Mentre esiste una cultura india del sud, che oggi sta anche risorgendo in paesi come la Bolivia, per esempio, e non soltanto, non esiste più nessuna cultura degli indiani del nord, perché i protestanti considerano i corpi dei selvaggi pelle rossa come corpi senza anima e come puri e semplici ostacoli alla valorizzazione capitalistica del territorio. Per cui la razionalità protestante elimina, nel più grande genocidio che sia certamente avvenuto nella storia umana, e considera la popolazione cosiddetto popolo degli uomini come un puro e semplice ostacolo alla modernità, da togliere di mezzo, come poi di fatti è accaduto. Non esiste più la cultura pelle rossa, esistono piccole riserve che non hanno più alcuna vitalità. No, ma intendevo, però ora la cultura, diciamo, statunitense non è più così fermamente legata appunto al suo passato protestante, perché lei diceva che era più legato... Perché qual è il... Lei diceva che appunto il capitalismo adesso è più legato alla produzione, comunque è legato alla produzione di immagine. E dove nasce la produzione di immagine? Fatelo venire in mente. Qual è tra gli stati americani quelli in cui la produzione di immagine... E la California, secondo te, è protestante? La California è un paese spagnolo, è un territorio spagnolo. Fino al 1848 la California è parte del Messico, e Los Angeles è territorio culturalmente latino. Ieri ho citato questo libro, Serge Grusinski, La guerre des images, che qualcuno mi diceva che è tradotto in italiano, è un libro bellissimo, in cui lui dice: noi non capiamo Hollywood se non partiamo dal barocco, non capiamo la televisione se non partiamo dal barocco. Ed è, ecco, quello che poi dice anche Bolivar Echeverria. Bolivar Echeverria dice: dunque, allora, la modernità capitalistica borghese si fonda sul aniconismo gotico protestante, il culto della verità, della misura, del tempo del valore come tempo medio di lavoro necessario. Però a un certo punto, nel corso del XX secolo, ecco che nasce un'altra cosa. Quell'altra cosa è la produzione cognitiva, la produzione immateriale, la produzione immaginaria, che trova in Hollywood probabilmente la sua fabbrica centrale. Hollywood è nel punto giusto, un retroterra latino, peraltro un influsso della cultura latina molto importante nella Hollywood dei primi decenni, e contemporaneamente il rapporto con l'America industriale e finanziaria e prossima alla crisi del 29. Ecco che Hollywood diventa in qualche modo il centro pulsante di un processo che poi nella seconda parte del secolo diventerà un processo universale, che è quello della immaterializzazione o post-industrializzazione della produzione capitalistica. Ed eccoci al punto. Il punto è questo, che tu puoi stabilire il valore della merce sulla base del tempo di lavoro, fino a quando hai a che fare con del lavoro di tipo materiale, muscolare, fisico, quantificabile. Ma quando il fattore lavorativo che determina il valore è un'idea, un progetto, uno stile, cioè è il lavoro immateriale del cervello umano nella sua condizione libera, individuale o nella sua condizione collettiva, quando il lavoro si cognitivizza, come fai a stabilire il tempo di lavoro mediamente necessario per la produzione di una merce? Quanto tempo ci vuole per avere un'idea? Un secondo o 40 anni? Quell'effetto. La stessa idea può essere prodotta in un secondo o in 40 anni. Ecco che tutto da un certo momento in poi comincia ad entrare in una condizione di progressiva aleatorietà. Qui io cito un altro libro, che è il libro di Jean Baudrillard, un filosofo che molti di voi conoscono certamente. Baudrillard ha scritto un libro intitolato lo scambio simbolico e la morte, edizione Feltrinelli, è un libro del 1976, è un libro del 1976 e Baudrillard, con grande anticipo, Baudrillard ha anticipato, è uno dei filosofi che probabilmente fra i filosofi francesi è probabilmente quello che ha più vivamente anticipato ciò che noi oggi vediamo della crisi finanziaria. Ci sono alcune sue cose, vi farò avere poi nella bibliografia, adesso vi farò avere anche un articolo di Baudrillard del 1996, un articolo straordinario in cui fa un discorso sul debito. E in questo libro Baudrillard ragiona su una cosa che si era appena verificata, insomma che era accaduta pochi anni prima. Nel 1971 il presidente degli Stati Uniti d'America, Richard Nixon, dichiara la inconvertibilità del dollaro e la indipendenza del dollaro dal regime degli scambi fissi. Cos'è il regime degli scambi fissi? Nel 1944, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, le potenze vincitrici avevano stabilito un ordine economico per il mondo post-bellico, no? Come faremo dopo la guerra? E avevano stabilito in una città che si chiama Bretton Woods, avrete letto da qualche parte questa parola, Bretton Woods, il nome della località in cui Churchill e Eisenhower e Truman si incontrano per stabilire il sistema economico del dopoguerra, e avevano stabilito un sistema di scambi fissi tra le diverse monete. Non chiedetemi dettagli perché non li conosco, ma questo voleva dire che insomma ogni moneta dei vari paesi del mondo doveva tenere conto di un sistema fisso di scambi finanziari. Nel 1971 il presidente americano, per diciamo ragioni legate alla crisi economica che gli Stati Uniti stavano vivendo, ma anche pensando alla forza militare che gli americani avevano nel mondo, dichiara che il dollaro esce dal sistema degli scambi fissi e da questo momento in avanti il dollaro deciderà autonomamente il suo valore sulle piazze finanziarie internazionali, anche grazie al fatto che il dollaro è la moneta in cui si scambia il bene globale per eccellenza, il petrolio. Il petrodollaro è la base della potenza dell'egemonia finanziaria americana, e dunque in quel momento l'economia americana dichiara la fine dello scambio universale e dichiara anche una sorta di aleatorietà. Aleatorio, cos'è vuol dire? Aleatorio è qualcosa che fluttua, che non si può definire. E quando una cosa è aleatoria, come fai a definirla? La definisce chi è più forte. Se tu disponi di una misura, puoi dire il valore di questa cosa è definibile in termini obiettivi, dunque tu devi rispettare questa misura. Ma nel momento in cui la misura non c'è più, come si stabilisce il valore di una merce? Si stabilisce sulla base della forza, si stabilisce sulla base di una dinamica in cui la violenza militare, per esempio, o mafiosa, per esempio, diventa sempre di più decisiva nella determinazione del valore finale della merce. Ecco che, questo dice Baudrillard, con la fine del regime di Bretton Woods, meglio, con la fuoriuscita della potenza americana dal regime di Bretton Woods, inizia un'epoca che lui definisce il regime dei valori fluttuanti o della aleatorietà dei valori fluttuanti, inizia un'epoca in cui nessun bene ha più un valore, nessun segno si riferisce più ad un referente fisso, ma ogni segno deve affermare il proprio valore sulla base di un rapporto di forza. Inizia un'epoca nella quale la definizione della verità stessa viene sottoposta ad una continua ridefinizione, rinegoziazione. La verità esce dalla scena dell'enunciazione collettiva, dell'enunciazione sociale, tant'è vero che i media, e particolarmente i media immaginari, vengono ad assumere un ruolo sempre più significativo nella determinazione dell'opinione collettiva. Allora, spostiamoci ancora dal campo finanziario al campo delle enunciazioni, al campo linguistico. Voi pensate all'epoca borghese, all'epoca del grande capitalismo protestante, gotico, severo, discorsivo. Come si forma l'opinione collettiva? Si forma dalla lettura dei giornali, dalla lettura del libro, si forma sulla base del riferimento al testo, ad una verità che è una verità in qualche modo definibile in maniera sequenziale. La lettura del testo, sapete che questo ce lo spiegano mediologi come Ong, come lo stesso McLuhan, come Derek de Kerckhove, tecnologia comunicativa di tipo testuale, resa possibile dalla scrittura e dalla stampa, quella tecnologia ci permette di esercitare un esercizio che noi chiamiamo l'esercizio della critica. Cos'è la critica? Critica, da crisis, che significa distinzione nel suo significato greco. La critica è la capacità di distinguere tra il vero ed il falso in un enunciato, enunciato che noi possiamo ripercorrere avanti e indietro in maniera sequenziale, perché nella lettura del testo noi abbiamo la possibilità di fermarci e dire: aspetta un attimo che cerco di capire, rileggo, confronto. Ecco allora che la formazione dell'opinione nell'epoca borghese si riferisce ad una verità che è una verità in qualche maniera stabilita attraverso un sistema mediatico critico, criticabile. Quando l'opinione esce, la formazione dell'opinione pubblica esce dalla sfera del testo scritto e si trasferisce nella sfera della produzione di immagine cinematografica prima, di immagine televisiva poi, di immagine pubblicitaria poi, di immagine nella rete, di immagine digitale, di immagine simulata, di immagine elettronica. Cosa accade? Accade che la stessa velocità di esposizione dell'informazione diventa tale l'informazione corre ad una tale velocità che la mente individuale e la mente collettiva non sono più in grado di criticamente stabilire il valore di verità degli enunciati. Gli enunciati finiscono per prescindere totalmente dal regime di verità, diventano enunciati che si autoaffermano costruendo un proprio immaginario, l'immaginario della simulazione. Quindi in questo caso il significato diventa referente? Questa è una questione, io direi che il referente scompare. Però in realtà viene sostituito un po' dal significato. Sì, diciamo, cioè, il significante... Da un referente diventa... Cioè ci deve essere un referente, anche se immaginario. E chi l'ha detto che ci deve essere? Il referente è l'esistenza del mondo. I media elettrici istituiscono... Istituito, però... Esatto. Sì, diciamo, difatti noi possiamo chiamare il regime mediatico contemporaneo come un regime post-referenziale, ma guarda che noi possiamo chiamare l'economia finanziaria come un'economia post-referenziale. Perché cosa succede, qui siamo finalmente al punto, nel momento in cui passiamo dal capitalismo industriale protestante al semiocapitalismo post-industriale barocco? Succede essenzialmente che il rapporto tra significante danaro, meglio, segno significante significato danaro e il referente, la cosiddetta economia reale, quella lì che si può toccare, quel rapporto salta, perché non è più un'economia reale che si può toccare, l'economia reale diventa economia immaginaria. E peraltro non esiste più la possibilità di valutare il tempo di lavoro necessario per produrre una merce. Però per ora una misura che poi è relativa anche quella, però cioè nel senso è adottata per un sacco di cose, anche appunto la rete, il feedback. È il? Feedback. Cioè la quantità di contatti? Quella lì è l'unica, certo, l'unica misura che a volte viene, cioè anche il lavoro pagato soltanto per... Sì, tu puoi dire che la verità non consiste più nella corrispondenza al reale, ma nella autoistituzione del reale da parte della circolazione del significante. Sì, che se fosse poi totalmente arbitraria, nel senso se ognuno potesse decidere realmente, avesse le armi, potrebbe funzionare un sistema, però... Sai, qui anche la parola arbitrario va un po' come la parola verità. Cos'è vero? Cos'è la verità? Difatti io ho detto subito, ma la parola verità è una parola che apre una questione infinita a cui non giungeremo mai a dire un'ultima parola. Perché? Perché, per quello che tu stai dicendo, la verità consiste nella corrispondenza fra il segno e di referente, o consiste invece nella autovalidazione del senso, del segno, attraverso cosa? Attraverso la forza, attraverso la maggioranza dei contatti, il feedback. Sì. Ecco, il feedback è come sistema. Autovalidazione del segno. Sarebbe l'evoluzione della democrazia. Sì, certo, la democrazia come forma di autovalidazione del segno, dove la verità viene stabilita attraverso il numero dei contatti che corrispondono ad una certa enunciazione. Io più o meno adesso confusamente, eccetera, sono arrivato al punto che quindi mi interessava arrivare. E qui la faccio finita. Adesso ritorno invece alle questioni di metodo relative allo svolgimento del corso. Queste cose che abbiamo detto contengono al proprio interno una quantità di riferimenti, come vedete, che vanno in qualche misura e per quanto possiamo approfonditi in maniera separata. Infatti questo corso ha un carattere, uno potrebbe dire confuso, o un altro potrebbe dire ipertestuale, quello Gentile direbbe ipertestuale, è un corso che non si svolge tanto linearmente, ma che si compone di una serie di scenette, potrei elencarne qualcuna. il concetto di deterritorializzazione, la questione della riforma protestante, la questione della verità o dell'autovalidazione, il barocco e il suo ritorno sulla scena estetica contemporanea, eccetera, eccetera. Su ciascuna di queste, di questi temi abbiamo sviluppato in vari momenti dei ragionamenti più o meno approfonditi. Non possiamo continuare così, a un certo punto ci fermeremo. E adesso ritorniamo, anche rifacciamo un po' il calendario, vediamo quando ci rivediamo. A un certo punto ci fermeremo, io direi presto ci fermeremo, facciamo un'altra lezione, un paio di altre lezioni e poi ci blocchiamo lì e ricominciamo da capo. Però prima di ricominciare da capo mettiamo un po' d'ordine in questo guazzabuglio, se ci è possibile. Per cui io vorrei adesso iniziare, intanto vi manderò, chi non c'era le altre volte deve, se gli va, segnare qui un suo indirizzo email, così riceverà qualcosa. Io vi manderò allora delle bibliografie, una bibliografia, vi manderò alcuni testi di riferimento, alcuni in inglese, diciamo qualche cosa anche in italiano, e anche alcuni testi, alcune cose che scrivo io e che tentano di definire degli aspetti di questa faccenda. Nulla di ciò che vi mando a carattere sistematico, nel senso che non dovete sperare che le cose che vi mando mettano in ordine gli argomenti di cui stiamo parlando. Un certo grado di disordine lo sconteremo fino alla fine, però a un certo punto, diciamo alla seconda lezione a partire da oggi, io proporrò un esercizio di diciamo costruzione collettiva di una scaletta, cioè cercheremo di dedicare 2 ore del corso alla creazione di un indice ragionato delle cose su cui abbiamo lavorato. A quel punto potremo ripartire da capo e rifare il lavoro che abbiamo fatto fino adesso, però seguendo una specie di ordine che noi stessi abbiamo stabilito, naturalmente. Ecco, nel frattempo, se qualcuno di voi riesce a dare un'occhiata ad alcuni dei materiali che vi ho suggerito, in particolare io direi il libro di Maurizio Lazzarato, La fabbrica dell'uomo indebitato, un testo di David Graeber che vi manderò, o magari Capitale e linguaggio di Christian Marazzi, poi una cosa di Baudrillard che io vi manderò prossimamente. Ecco, se riuscite anche a dare un'occhiata ad alcune di queste cose ci intenderemo più in fretta. Che altro vi posso dire? Però qui c'è anche da qualche parte il foglio delle firme di oggi, per cui chi vuole, chi sta nella lista può firmare questo foglietto. Tu sei, non sei iscritto al corso? Sì. No, non sei qua nella lista. Neanche tu. No. Non sono fuori. Sono l'unico di fotografia, sì. Come? Anche io sarò l'unico di fotografia. Seguire il suo corso. Ci sono un po'. Sì. In un'altra area di biennio. Cioè. Questioni. Lina, come va? Va bene? Come dici? Sì.